Remix. Bar de Blanca Records. Hey. E questo è Dai, forse sono un po'. Forse non ci sono di testa, dai, non mi interessa un cazzo. Hey. E Pix from Pix Acuto, Bar de Blanca Records. Hey. Pix. Cerchi me. Pix rap. Cerchi figa. Cerchi birra, cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciuccia e ti prosciuga. Mi sono perso, cerco aiuto. Pix e rap man, se persino un po' posto sperduto. Mamma mia che aiuto puoi darmi, se stai messo peggio di me, te tendo ad impiccarmi. Cerca uno psichiatra, promettimelo. Cerca pure i soldi per pagarmelo. Sai com'è, Pix e rap, dammi money. Compro tanta Coca-Cola, poi mi fumo i polmoni. Cerca una musicista, una donna per bene. Cerca una musicista che me lo so suona bene. Cerca un fegato nuovo, cerco qualcosa di nuovo. Ora tutti insieme, di nuovo. Cerchi me, Pix e rap. Cerchi figa, cerchi birra, cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciuccia e ti prosciuga. Cerchi me, Pix e rap. Cerchi figa, cerchi birra, cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciuccia e ti prosciuga. Cerco una pasta ricca, italiana, americana, mi va bene pure greca. Cerchi incontri d'amore su Facebook, mamma, poi ti danno appuntamento fake come su Badoo. Se anche tu sei scimmiato perso, vendo scimmie ad alcol, droghe pure sesso. Cerco una babba dante rumena, cerco i soldi per tatuarmi tutta la schiena. E che pensi me, la paranoia mi si accentua. Cerco la svolta per andare via da qua. Distruggo tutti i tuoi astelli sulla sabbia. La pista mi si scoppia mentre la testa scoppia. Allora cerchi me, Pix e rap. Cerchi figa, cerchi birra, cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciuccia e ti prosciuga. Cerchi me,